tanti auguri per Natale, dai, tanti auguri per fine anno. Ci sentiamo tutto alle prossime, che io adesso vado a fare un po' di commissione. Ben sentita e saluto a tua gara familiare. Ciao, poi è ricambiato al centro, a te al correa familiare, buona festa. Riprendi Gian Maria. No, Gian Maria al telefono, grazie. Vagava, chi è rimasto? Antonello, riprendi, che sono in movimento io. Mi è tratto, Vagava, adesso sto entrando dal posto, non so se mi senti Gian Maria. Già ti sento, perché non ti sento? Perché? Non è che sta entrando? E giù nel Postanica, ma che se ne è andato, sta più saluti. Ok, comunque ti sento anche se sei nel posto, che ti sento, ti accompagno fino a su, dai, da dove, che è acceso adesso, ti accompagno fino a campagna, vai. Come sto arrivando lì, grazie, bene? Bene, Gian Maria, benissimo. Che mi fa piacere, dai. E così è, Ru. Pizzina, che tu graziano, che... Dammi una ditta un po' questo manzano, che tutta canzana di rimane, tutta canzana di oggi, sempre in conferenza di cosa. Certo, dici, chi sa Bagoletta dice la rimane a poco di cosa, qua. Se bisogna accontentarla, dice, allora manco fai stare oggi, sarà contento. E allora, e gli ero greco, corare, a che detto riccato, Gian Maria, e poi dietro le cose buone. Oh, le riccate le pensate, no? Ma, se ci ha mangiato la bocca, va, si deve mangiare l'osso, buono, Allora, Ma si va a detti buone, bisogna arrossicare, e tira davanti, davvero, magari lo voglia buono. Ah, pittina, a te malandrina è diventato, Va, ponemi l'apposto, ponemi l'apposto che è troppo esagerato, E allora, che ha un po' l'apposto è, Uia, tuo marito, ma che? Vorrei la più via, Lascia fare, Ru, lascia fare, dato dentro non se ne tocca. Così che la avete il camionetto lì e per cui la notte è più bella è quando piove, Ru. Almeno è più... Boh, è tutta un'altra cosa in campagna, dai. In campagna è tutta un'altra cosa, sì, Gio Mari, anche se c'è insomma, perché tu, vabbè, oggi non c'è lei da ieri, anche freddo freddo, è la verità. No, ma è già un paio di due o tre giorni che sta facendo questo vento caldo, è strano veramente, no? Ehi, io sono tutta sudata a me, e sono, il capo e il coso, no? Con la cuffia, perché mi metto la cuffia io per il mal di testa. Però da ieri a oggi c'è caldo, Gio Mari, sono sudata io. E lo credo bene, che è allora che è Graziano, caldo o freddo a lui? E in cuffietta, Gio Mari? In cuffietta, con un bomponi. E allora, con un bomponi in capo, è brutto quello, un bomponi saluti. Come già tantoni mio, il cura che ha più buoni saluti, vuole dire sotto, sotto vuole dire. E allora, e ho detto che non faccio più che la da vissuti a Gian Maria. Come già tantoni mio, il cura che ha più buoni. Sì, dai, se non si scherza, almeno ammazziamo il tempo, dai. Si scherza e ogni tanto è... Tanto va a dire qualche cosa diversa, ok? Non è così? Gio Mari, allora, se non si scherza. Ascolta, noi siamo già arrivati, Gio Mari, già attacca dentro. Fratello, che ci sei, capito? Già lascia acceso, dai, lo lascia acceso qua, Ru. Allora, buon proseguimento, dai, fate pure tranquillo, allora si è acceso, finché non ci muoviamo noi pure, dai, ma ancora già è presto magari, noi scendiamo, più tardi scendiamo, capito? D'accordo, Ru, mi raccomando, già ci sentiamo domani per gli auguri, dai, o per il faccio adesso. Auguri, buona festa e ci sentiamo, Ru, d'accordo? Ehi, Radio Maria sia a te e a tua moglie, li canti a te a tutti. Va bene, ciao, ciao, ci sentiamo. Ok, ciao, ciao da tutta la combricola di casa, ciao. Ciao, ciao. Grazie, mi raccomando, e fai da bravi saluti, eh.